Io sono il cielo e voglio accoglierti nel mio spazio, così ampio ma così stretto allo stesso tempo. E sono il cielo e da qui osservo tutto. Vedo i prati, la gente, il mare, le case, e a volte riesco a vedere anche te. Da quassù mi sembri ancora più bella, tu mi illumini quando son buio. E adesso guarda su, prova a sentirmi vicino, adesso toccami, basta che tendi una mano, adesso siediti e parla del tuo destino, sono qui per te. Con le stelle rifletto gli occhi tuoi. Sei arrivata fino qua, benvenuta ci sarà, tanto spazio nel mio mondo, dove sei, non andare via, baby, brilla ancora dentro me, non sarai solo un ricordo. Sono il cielo e piango quando non mi vedono, perché sento che è più distante il tuo sguardo. E sono il cielo e da qui osservo tutto. Vedo gli aerei passare, la neve cadere, ma spesso mi fermo a guardare. E adesso guarda su, prova a sentirmi vicino, adesso toccami, basta che tendi una mano, adesso siediti e parla del tuo destino, sono qui per te. Con la luna rifletto gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Sei arrivata fino qua, benvenuta ci sarà, tanto spazio nel mio mondo, dove sei, non andare via, baby, brilla ancora dentro me, non sarai solo.